quello lì, quello laggiù, quello vuole bene a tutti. Lui deve essere un dio. Perché ci vuole coraggio. Camminare senza guardarsi le punte delle scarpe. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio. Ad andar sotto al sole senza il collo abbronzato. E diamogli un regno. Diamogli un chissà. Quello lì, quello l'angelo, quello ride sempre, ride ancora, e la sua mente obietta. Seduto sul ciglio di una strada, disegnando cerchi in aria come ballerini, e canta senza sosta, come solo chi è capace all'amore. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, Luca D'Amar. Ci vuole coraggio a star nell'ombra, a desiderar. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio a non correre dietro ai fatti sempre come una lepre. E datemi un pugno, un pezzo di specchio, un calendario. Ci vuole coraggio. Non ha bisogno di musica o sonno. Ci vuole coraggio.